ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Arthur rimase al cancello mentre Ruth saliva gli scalini dell'ingresso della casa di Maria. La ragazza sentiva il rapido ticchettio della macchina per scrivere e quando Martin la fece entrare nella stanza scoprì che stava terminando l'ultima pagina di un manoscritto. Ruth era venuta per accertarsi se sarebbe stato ospite della tavola di famiglia per la cena del giorno del ringraziamento. Ma prima che lei potesse affrontare l'argomento, Martin si era già tuffato in ciò che veramente gli interessava. Ecco, lascia che te lo legga, esclamò, separando le copie carbone dagli originali e rimettendo in ordine le pagine del manoscritto. È proprio l'ultima cosa che ho scritto ed è diversa da tutto il resto. È così diversa che ne ho quasi paura. Eppure ho una mezza idea che sia buona. Giudica tu. È un racconto ambientato nelle Hawaii. L'ho intitolato Wiki Wiki. La faccia di Martin era illuminata dal fuoco della creatività, ma Ruth tremava dal freddo in quella stanza e quando lui le aveva stretto la mano accogliendola, era rimasta colpita da quanto fosse fredda. Lo ascoltò leggere con attenzione e Martin, che aveva visto solo disapprovazione sul volto della ragazza, alla fine le chiese: «Sinceramente, cosa ne pensi?» «Io non saprei», rispose lei. «Pensi che potrai venderlo?» «Oh, non credo», confessò lui. «È troppo forte per i giornali». «Ma è la realtà, è la realtà!» «Ma perché ti ostini a scrivere cose simili quando sai che non si venderanno?» continuò Ruth, inesorabile. «Tu scrivi per guadagnarti da vivere, non è vero?» «Ah, sì, è vero!» Ma questo miserabile racconto si è impossessato di me. Non ho potuto fare a meno di scriverlo. Ha preteso di essere scritto. Ma quel personaggio, continuò lei, quel Wiki Wiki, perché lo fai parlare in modo così rozzo? È certo che i tuoi lettori lo troverebbero offensivo ed è certo che gli editori hanno ragione a rifiutare per questo i tuoi lavori. Ma perché il vero Wiki Wiki avrebbe parlato così, disse lui. «Ma non è di buon gusto, è la vita!» replicò Martin bruscamente. «È vera, è la realtà, e io devo descrivere la vita così come la vedo!» Ruth non rispose e per un istante rimasero seduti in un silenzio imbarazzato. Era perché l'amava che Martin non comprendeva Ruth e lei non lo capiva. Perché lui le era così superiore da elevarsi ben oltre il suo orizzonte. «Ecco, sono riuscito a farmi pagare dal Transcontinental quello che mi doveva», disse Martin, nel tentativo di passare a un argomento meno scomodo. L'immagine del trio baffuto di quel giornale, così come l'aveva visto prima di andarsene, spogliato di $4.90 e un biglietto del traghetto, lo fece sogghignare. «Allora verrai», gridò Ruth, felice. «Sono venuta proprio per scoprirlo». «Venire?» borbottò Martin senza capire. «E dove?» «Ma a cena domani sera. Ti ricordi? Hai detto che se fossi riuscito a farti dare quei soldi, avresti potuto riscattare il vestito». «Oh, me ne sono dimenticato», le disse umilmente lui. «Vedi, questa mattina una guardia si è presa le due mucche e il vitellino di Maria, eh? Maria non aveva i soldi e così ho recuperato io le mucche per lei. Ecco dove sono finiti i $5 del Transcontinental. Il suono delle campane è finito nelle tasche delle guardie comunali». «Allora non verrai?» Martin si guardò i vestiti. «Non posso!» Lacrime di delusione e rimprovero le brillarono negli occhi blu, ma Ruth non disse nulla. «Il prossimo giorno del ringraziamento ti porterò a cena da Delmonico», le disse lui con allegria, «oppure a Londra, o a Parigi, o dovunque tu desideri. Io ne sono sicuro». «Qualche giorno fa ho letto sul giornale che le poste ferroviarie hanno assegnato diversi incarichi», disse Ruth all'improvviso. «Tu eri il primo, non è vero?» Martin fu costretto ad ammettere che la chiamata era arrivata, ma che lui l'aveva rifiutata. «Ero così sicuro, sono così sicuro di me stesso», concluse. «Tra un anno esatto guadagnerò più di una dozzina di impiegati delle poste ferroviarie. Aspetta e vedrai». «Oh», fu tutto ciò che Ruth riuscì a dire quando Martin ebbe terminato. Si alzò in piedi, infilandosi i guanti. «E devo andare, Martin. Arthur mi sta aspettando», disse. E Martin la prese tra le braccia e la baciò. Ma lei non rispose al suo innamorato. Il suo corpo non si tese, le sue braccia non lo avvolsero e le sue labbra non incontrarono quelle di lui con l'abituale pressione. E Martin, dopo averla accompagnata al cancello, le concluse che Ruth fosse arrabbiata con lui. Ma perché? Che la guardia avesse beccato le mucche di Maria era stato davvero un caso sfortunato, ma appunto era solo un caso sfortunato. Nessuno ne aveva colpa. Non gli passava nemmeno per la testa che avrebbe potuto fare qualcosa di diverso da quello che lui aveva fatto. Va bene, sì, aveva un po' di colpa, pensò Martin subito dopo, perché aveva rifiutato la chiamata delle poste ferroviarie. Inoltre a Ruth Wiki Wiki non era piaciuto. Marty si diresse verso gli scalini dell'ingresso per incontrare il postino durante il suo giro pomeridiano e mentre prendeva il fascio di lunghe buste fu assalito dalla sempre ricorrente febbre dell'attesa. Una delle buste non era lunga, era corta e sottile, e sull'esterno era stampato l'indirizzo di The New York Outview. Martin, mentre l'apriva, si bloccò. Non poteva contenere un contratto. Non aveva spedito nessun manoscritto a quella rivista. Forse, e a quel pensiero selvaggio il suo cuore quasi smise di battere, forse gli scrivevano per ordinargli un articolo, ma l'istante successivo scacciò quell'idea come del tutto impossibile. Era una lettera breve e formale, firmata dall'ufficio dell'editore. Lo informava che si accludeva una lettera anonima giunta alla redazione e che, poteva esserne sicuro, la redazione dell'Outview non prendeva in considerazione le lettere anonime mai e per nessun motivo. Martin vide che la sua lettera clusa era brutalmente scritta a mano. Era un guazzabuglio di abusi sgrammaticati contro di lui, di affermazioni secondo le quali il cosiddetto Martin Eden, che cercava di vendere racconti ai giornali, non era affatto uno scrittore. In realtà rubava racconti da vecchie riviste, li ricopiava a macchina e li spediva in giro come fossero i suoi. La busta era stata imbucata a San Leandro. Martin non ebbe bisogno di pensarci due volte per scoprirne l'autore. Ovunque traspariva la grammatica di Higginbotham, le espressioni di Higginbotham, le contorsioni e i processi mentali di Higginbotham. Martin li vedeva in ogni riga, scritta non in un elegante corsivo, ma nel pugno del grezzo bottegaio, suo cognato. Ma perché? Martin si chiese inutilmente quale offesa aveva mai inflitto a Bernard Higginbotham. Tutto era così illogico, così gratuito. Non c'era una spiegazione. Nel corso della settimana una dozzina di lettere simili furono inviate a Martin dagli editori di vari giornali della costa orientale. Gli editori si stavano comportando davvero correttamente, pensò Martin. Non lo conoscevano affatto, eppure alcuni di loro si erano mostrati solidali. Era evidente che detestavano l'anonimato e Martin comprese che quel maligno tentativo di danneggiarlo era fallito. Beh, in effetti, se doveva esserci una qualche conseguenza a quelle lettere, probabilmente sarebbe stata positiva. Ecco, se non altro, le lettere anonime avevano richiamato l'attenzione di un certo numero di editori sul suo nome. Forse, una volta o l'altra, leggendo uno dei suoi manoscritti, quegli stessi editori si sarebbero ricordati di lui come quel tale nominato in una lettera anonima. E chi può dirlo? Forse quel ricordo avrebbe potuto spostare l'ago della bilancia appena un po' in favore di Martin. Fu grosso modo a quest'epoca che Martin perse buona parte della considerazione di Maria per lui. La sorprese in cucina che si lamentava per il dolore. Le lacrime le scorrevano lungo le guance, mentre si sforzava inutilmente di venire a capo di un cumulo di vestiti da stirare. Martin diagnosticò senza esitazione la malattia che l'affliggeva come influenza. Le somministrò una dose di whisky bollente, messa insieme con i fondi delle bottiglie lì portate dal colpevole Brissenden, e le ordinò di andare a letto. Ma Maria non voleva. Il bucato andava stirato, protestò, e consegnato quella sera stessa, altrimenti il giorno dopo non ci sarebbe stato nulla da mangiare per i sette piccoli affamati Silva. Maria vide con sua enorme sorpresa. Non avrebbe mai smesso di raccontare l'episodio fino al giorno della sua morte. Martin Eden afferrare un ferro della stufa e stendere un corpetto di pizzo sull'asse per stirare. Era la miglior camiciola della festa di Kate Flanagan, la donna più pretenziosamente e puntigliosamente vestita nel mondo di Maria. Per di più, la signorina Flanagan si era raccomandata che la camiciola fosse pronta per quella sera. La ragazza, infatti, come tutti sapevano, frequentava John Collins, il fabbro, e secondo quanto la prima aveva confidato a Maria, il giorno dopo la signorina Flanagan e il signor Collins sarebbero andati al parco del Golden Gate. Maria tentò di recuperare il prezioso indumento, ma fu inutile, e Martin ne guidò i passi incerti verso una sedia, da dove la donna lo osservò con gli occhi doloranti. In un quarto del tempo che avrebbe impiegato lei, la camiciola ricomparì intatta e stirata altrettanto bene di quanto avrebbe fatto lei, come Martin la costrinse ad ammettere. «Potrei lavorare più velocemente», le spiegò, «se i tuoi ferri fossero più caldi». Ma i ferri che Martin librava nell'aria erano già ben più caldi di quelli che Maria avrebbe mai osato utilizzare. «Non inumidisci nel modo giusto», fu il rimprovero di lui successivo. «Ecco, lascia che ti mostri come si fa a inumidire». Hai bisogno di pressione, inumidisci sotto pressione se vuoi stirare in fretta. Martin prese una cassetta dalla catasta della legna in cantina, vi mise un coperchio sopra e raccolse i rottami di ferro che la tribù dei Silva ammassava per il rottamaio. Una volta riempita di capi appena inumiditi, ben chiusi e pressati dai rottami, il congegno fu completo e operativo. «Adesso guardami, Maria», le disse Martin, mentre, rimasto in canottiera, afferrava un ferro davvero caldo. Nella descrizione che Maria ne diede più tardi, disse: dopo che aveva finito di stirare, si è lavato tutta la lana. Mi dice: Maria, sei niente furba, adesso ti mostro come si lava la lana. E me la mostra proprio. In 10 minuti fa su un arnese, cioè un barile, un mozzo di carro, 2 pali, è proprio così. Martin aveva conosciuto quel congegno da Joe allo Shelly Hot Springs. Lo stantuffo era formato da un vecchio mozzo fissato a un'estremità da un palo verticale. Legando quest'ultimo a un palo orizzontale, a sua volta assicurato alle travi della cucina, in modo che il mozzo si tuffasse nella lana in ammollo nel barile, Martin era in grado di strofinare i capi con una sola mano. «Niente più lana da lavare per Maria!» Maria finiva sempre così il suo racconto. «Ci ho fatto lavorare i ragazzini con il palo e il mozzo e il barile!» «Ah, una brava persona, il signor Eden!» Ciò nonostante, Martin, proprio a causa della sua maestria e dei miglioramenti apportati alla cucina lavanderia di Maria, perse molta dell'importanza che prima aveva agli occhi della donna. La luce dell'avventura con la quale l'immaginazione di Maria aveva rivestito il suo inquilino svanì alla fredda luce della realtà. Martin era un ex lavandaio. Tutti i suoi libri, i nobili amici che lo venivano a trovare in carrozza oppure portando innumerevoli bottiglie di whisky, finirono in niente. Martin, dopo tutto, era solo un operaio, un membro della stessa classe e della stessa casta di Maria. Era più umano e avvicinabile, ma non aveva più mistero. Nel frattempo, il distacco tra Martin e la sua famiglia continuava ad aggravarsi. Immediatamente dopo l'attacco ingiustificato del signor Higginbotham, fu la volta del signor Hermann von Schmidt di mostrare le armi. Martin, grazie alla fortunata vendita di diversi raccontini, qualche poesiola umoristica e alcuni indovinelli, stava vivendo un momento di prosperità. Non solo poté pagare parzialmente i suoi debiti, ma con i soldi rimastigli poté anche riscattare il completo nero e la bicicletta. Quest'ultima, a causa di un gancio che si era stortato, aveva bisogno di essere riparata, e Martin, come segno di amicizia verso il futuro cognato, la mandò all'officina di von Schmidt. Il pomeriggio di quello stesso giorno, Martin, con sua sorpresa, si vide riportare la bicicletta da un ragazzino, mentre di solito le biciclette riparate bisognava andare a ritirarle. Di fronte a questo insolito favore, concluse che anche von Schmidt aveva voluto mostrargli la sua amicizia. Ma ad un esame più approfondito si accorse che la bicicletta non era stata riparata. Più tardi, quando telefonò al promesso sposo di sua sorella, scoprì che quella persona non voleva aver nulla a che fare con lui, in nessun modo, maniera o momento. «Hermann von Schmidt», rispose Martin in tono scherzoso, «ho una mezza idea di venire lì e di darti un bel pugno su quel tuo naso da tedescaccio. Fatti vedere in officina», fu la replica, «e io chiamo la polizia, ma prima ti rimetto al tuo posto. Ah, io ti conosco, ma tu non puoi mica fare l'arrogante con me. Non voglio avere nulla a che fare con quelli come te. Sei un fannullone, ecco che cosa sei. Ma io non sono mica uno stupido. Non ti lascerò fare lo scroccone con me solo perché io sposo tua sorella, no? Perché non ti trovi un lavoro e non ti guadagni da vivere onestamente, Dai, avanti, prova a rispondere». I molti libri di filosofia letti fecero sentire il loro potere. La rabbia svanì e Martin appese la cornetta del telefono con un lungo fischio di ironica incredulità. Ma Dopo l'ironia giunse la reazione e Martin si sentì oppresso dalla propria solitudine. Nessuno lo capiva, nessuno voleva avere a che fare con lui, con l'eccezione di Brissenden, e Brissenden era sparito. Dio solo sapeva dove. Il sole stava calando quando Martin uscì dal negozio del fruttivendolo e si diresse verso casa con la spesa tra le braccia. Un tram si era fermato all'angolo e quando Martin vide discenderne una figura curva e familiare, il suo cuore fece un salto di gioia. Era Brissenden e Martin, in quel breve istante, prima che il tram ripartisse, notò le tasche del soprabito. Una rigonfia di libri, l'altra di una bottiglia di whisky da un quarto. Brissenden non diede alcuna spiegazione della sua lunga assenza, né Martin cercò di farselo dire. Gli bastava rivedere di fronte a sé la faccia cadaverica dell'amico attraverso il vapore che si alzava dai loro bicchieri di Toby. «Neppure io sono rimasto inattivo», annunciò Brissenden dopo aver ascoltato Martin descrivergli il lavoro svolto in quei giorni. Estrasse un manoscritto dalla tasca interna della giacca e lo diede a Martin, il quale, dopo aver visto il titolo, fissò l'amico con curiosità. «Sì, è vero», rise l'altro. «Non male come titolo, eh? Efemera è la parola adatta e il responsabile sei tu, eh? Che mi dici del tuo uomo, che non si piega mai, materia inorganica resa vitale, l'ultima delle effimere, quelle fragili creature del calore che puntellano sul termometro il loro piccolo spazio vitale? Mi è entrata in testa e ho dovuto scrivere per liberarmene. Dimmi cosa ne pensi». La faccia di Martin, all'inizio arrossata, impallidiva a mano che la lettura procedeva. Ecco la perfezione nell'arte. La forma trionfava sulla sostanza e si poteva parlare di trionfo là dove persino l'ultimo concepibile atomo di sostanza aveva trovato espressione in una costruzione perfetta, così perfetta da fargli girare la testa per la delizia, da riempirgli gli occhi di lacrime di passione, da insinuargli brividi lungo la schiena. Efemera era una lunga poesia di 600 o 700 versi ed era fantastica, stupefacente, soprannaturale. Era tremenda, incredibile, eppure era lì, scarabocchiata in inchiostro nero sopra un foglio di carta. Parlava dell'uomo e del brancolare dell'anima toccandone i termini fondamentali. Sondava gli abissi dello spazio alla ricerca della testimonianza dei soli più remoti, dello spettro dell'arcobaleno. Era una folle orgia dell'immaginazione che gozzogliava nel cranio di un uomo morente, di un uomo che, mentre singhiozzava a mezza voce, afferrava con ansia i selvaggi colpi d'ala di un cuore quasi esausto. La poesia danzava in un ritmo maestoso verso il freddo tumulto del conflitto interstellare, verso il battagliare delle schiere stellari, verso l'implodere di soli gelidi e l'accendersi delle nebulose nei vuoti oscurati, e sullo sfondo incessante e debole scorreva come una spoletta d'argento attraverso un telaio la fragile, pigolante voce dell'uomo, un querulo cinguettio tra le urla dei pianeti e il clangore dei sistemi. «Non c'è nulla di simile in tutta la letteratura», disse Martin non appena fu di nuovo in grado di parlare. «È meraviglioso, meraviglioso, mi è andato la testa, mi ha ubriacato. Quella grande, infinitesimale domanda, io non riesco a togliermela dalla testa. Quella voce umana, sottile e tremula, che ripete incessantemente nell'eternità la sua domanda, mi risuona ancora nelle orecchie. È come la marcia funebre intonata da un moscerino tra i barriti degli elefanti e i ruggiti dei leoni. È una voce piena di desideri microscopici e insaziabili. So che mi sto rendendo ridicolo, ma io ne sono ossessionato. Lei è... non so cosa lei sia, incredibile e basta. Ma come ci è riuscito? Come? Martin interruppe la sua rapsodia solo per ricominciare. «Io non scriverò più. Sono solo un imbrattatele di infimo grado. Lei mi ha mostrato l'opera del vero artefice, del vero artigiano. Genio. È qualcosa di più del genio, qualcosa che trascende il genio. È la verità diventata folle. Amico mio, ognuno di quei versi è vero. Mi chiedo se se ne rende conto. Lei, un dogmatico, eh? La scienza non può smerciarle delle menzogne, e in quei versi c'è la verità del riso di scherno, impressa nel metallo nero del cosmo, trasformata dai potenti ritmi del suono in un tessuto di splendore e di bellezza. Ma adesso non dirò più una parola, eh? Sono sopraffatto, schiacciato, anzi no, no, parlerò. Lasci che cerchi di farla pubblicare. Brissenden ghignò. Non c'è un solo giornale in tutta la cristianità che oserebbe pubblicarla, e tu lo sai. Ah, non so nulla di simile. So invece che ogni giornale della cristianità l'afferrerebbe al volo. Non ci si imbatte in cose simili tutti i giorni. Questa non è solo la poesia dell'anno. È la poesia del secolo, disse Martin. Mi piacerebbe proprio prenderti in parola. Adesso non sia cinico, gli si oppose Martin. Gli editori delle riviste non sono del tutto stupidi, ne sono certo. E farò una scommessa. Scommetto quello che vuole che Efemera verrà accettata dalla prima o al massimo dalla seconda rivista alla quale la offrirò. C'è solo un motivo che mi impedisce di lasciartelo fare. Brissenden attese un attimo prima di continuare. Questa cosa è grande. È la più grande che io abbia mai fatto, lo so bene. È il mio canto del cigno. Ne sono profondamente orgoglioso. La adoro. È meglio del whisky. È ciò che sognavo quando ero solo un ragazzo pieno di dolci illusioni e di nobili ideali. La grandezza e la perfezione. Sono riuscito ad afferrarla adesso, con la mia ultima presa, e non permetterò a un branco di maiali di calpestare e sporcare il mio lavoro. Non posso accettare la scommessa. Questa poesia è mia. Io l'ho scritta e io l'ho divisa con te. Ma pensi al resto del mondo, protestò Martin. Lo scopo della bellezza è creare gioia. Quella bellezza mi appartiene. Non sia egoista. Non sono egoista. Brissenden accennò un sorrisetto, come faceva sempre quando le sue labbra stavano per dare forma a un'idea che gli piaceva particolarmente. Sono altruista come un maiale affamato. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it